fammi un sorriso che ci Instagrammo. Quanto sballo ci sta Instagrammo. Quanto mi sta ci sta Insto palmo. Fammi staccare, fammi stare calmo. Fammi un sorriso che ci Instagrammo. Quanto sballo ci sta Instagrammo. Quanto mi sta ci sta Insto palmo. Fammi staccare, fammi stare calmo. Dove siamo non si riesce più a definirlo. Sto sul divano con i piedi su che defibrillo. Ne bevo 10 di vodka, poi 10 di mirto. Le canne come le foto, frammettici il filtro. Chiama Diane Arbus perché siamo freaks. Facciamo i tricks sui campi d'erba, Ryan Geeks. Non so né te chi sei, né che ci faccio qui. Ma la mia bomba è 5S, c'ha 4G. Foto di gruppo col volto distrutto. Mischio di tutto, poi smorzo col succo. In mezzo amici, erba buona poco. Puoi fare un sopralluogo. Vengo con gli occhi rossi anche quando sono a fuoco. Dammi un netto, le faccio a Castelletto. Digita cancelletto, poi scrivi l'architetto. Mi sveglio accanto a lei mentre fuori piove. Astinenza da Hangover, in testa una sinfonia di Beethoven. Ma tu fammi un sorriso che ci Instagrammo. Quanto sballo ci sta Instagrammo. Quanto mi sta ci sta Insto palmo. Fammi staccare, fammi stare calmo. Fammi un sorriso che ci Instagrammo. Quanto sballo ci sta Instagrammo. Quanto mi sta ci sta Insto palmo. Fammi staccare, fammi stare calmo. Al riparo dall'infami tipo Tango e Cash. La giriamo a quattro mani fra tipo Ganesh. Fumo green stash, poi mi faccio i flash. Il giorno dopo guardo le foto, non sai che trash. Impantanato, ho un vodka più Midori amalgamato. Altri liquori, voli su un cavallo alato. Fumo finché non mi sedo, finché non mi siedo. E se sei un cesso è come se sto fatto, baby non ti seguo. Brucia l'incenso, accendi i tuoi sensi, finché non siamo gli stessi. Sempre connessi, più siamo a pezzi, più ci facciamo le selfie. Sempre qua a postare, ma se il profilo poi lo scama la postale. Si vengono ad appostare, mettici cuoricini. Siamo qua fuori in Cili, ne ho fatto sti due cannoni che tacchi anche i tuoi vicini. C'ho quest'erba che ha fatto già un po' di giri. Noi non vi invidiamo, ridiamo, sofficini. Scattano un'altra, e di cartina strappano un'altra. Prendi una birra, stappane un'altra. Domani non c'è niente da fare, oh, scattane un'altra. E di cartina strappane un'altra. Prendi una birra, stappane un'altra. Domani non c'è niente da fare, oh. Facci una foto, siamo i più belli in zona. Ma addormento a Roma, mi risveglio bello in zona. Con in bocca un perizoma, un Dom Perignon. Sul comò la mia sveglia come un gong che risuona. Ancora squattrinato, nato per i quattro quarti. Vado e parto insieme agli altri, non ci hanno invitato. Ricordo ancora quattro gatti, manco sotto al palco al lato. Adesso lei mi vuole un cioccolato. Fammi un sorriso che ci Instagrammo. Quanto sballo ci sta Instagrammo. Quanto mi sta ci sta Insto palmo. Fammi staccare, fammi stare calmo. Fammi un sorriso che ci Instagrammo. Quanto sballo ci sta Instagrammo. Quanto mi sta ci sta Insto palmo. Fammi staccare, fammi stare calmo. Fammi un sorriso che ci Instagrammo. Quanto fallo ci sta Instagrammo. Quanto vista ci sta Instagrammo.